Un buongiorno a Federico Colline, benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, grazie mille. Buongiorno a voi. Oggi, lunedì 29 marzo, si terrà uno degli appuntamenti di Kino Beats, la collaborazione tra il Link e il Kinodromo. E appunto, proprio questa sera ci sarà la proiezione del documentario A Dream of Wires. Che cosa racconta questo documentario, Federico? Allora, Dream of Wires racconta dell'evoluzione, bene o male, dei sintetizzatori o anche del concetto di sintesi durante gli anni, dagli anni più che altro 60 a oggi, con anche un'introduzione su come è nata la musica elettronica, i primi strumenti. È un percorso che penso ci faccia capire tante cose rispetto a come si è appunto evoluta la produzione, ma anche la fruizione della musica elettronica. Kino Beats, intanto ricordo che è la rassegna che noi di Link portiamo avanti con il Kinodromo e che riguarda la musica elettronica, è una rassegna cinematografica, per cui i film che stiamo proiettando sono appunto relativi alla scena in generale della musica elettronica. Lo scorso era Raving Gran ed era un film più narrativo che raccontava la storia di questi due ragazzi iraniani. Per questo appuntamento diciamo che è un film che può interessare più i tecnici del settore o chi comunque conosce già certi aspetti della musica elettronica, anche appunto a livello tecnico. Come sarà sviluppato invece il programma della serata? Perché c'è anche una presentazione prima della proiezione, giusto? Sì, esattamente, c'è una presentazione in cui noi intervistiamo gli autori del film e dopodiché abbiamo anche registrato un DJ set con i ragazzi di BNC's Lab, che sono quelli che si occupano dei laboratori di fai da te per modulari, appunto, e che fanno parte del progetto di Link Academy, che è il progetto di educazione che stiamo portando avanti al Link. Quindi avremo sia un momento di incontro con gli autori, sia un live in realtà che è collegato al mondo dei modulari proprio. Tutto questo dove sarà? In piattaforme virtuali, ovviamente, immagino. Sì, sono le piattaforme virtuali che potete trovare nei contatti del Kinodromo sui social, dove potete registrarvi e fare l'accesso per il film. Ci hai consigliato anche dei brani da ascoltare. Uno l'abbiamo già sentito, mentre l'altro ce lo presenterai tu. Ci puoi raccontare qualche cosa su entrambi? Certo, allora, diciamo che abbiamo mandato due tracce che rappresentano un po' gli estremi della produzione elettronica con sistemi modulari, nel senso che quello che abbiamo appena ascoltato è una traccia di Blawan, che è un artista molto definitamente tecno, si può dire, nel senso che ha un approccio classico rispetto ai suoni, alla sintesi, al design, insomma. Mentre quello che ancora dobbiamo ascoltare è una traccia di Lukman a computer, che ha un approccio totalmente diverso e che unisce tutte le influenze punk con la musica elettronica, per cui c'è una costruzione più diversa della traccia e anche il cantato. E tutte e due le tracce sono state prodotte con sistemi modulari, come poi potete anche trovare su YouTube, nel senso che Blawan, come Kilner, ha fatto una boiler room che per me è fuori dal mondo, se posso dire. Mentre Lukman Computer ha l'abitudine di registrare i video proprio mentre produce le tracce, quindi è un'ottica a 360 gradi. Perfetto Federico, io ti ringrazio e ricordo che appunto oggi lunedì 29 marzo si terrà un altro degli appuntamenti con Kino Beats. Grazie ancora Federico. Grazie a voi.